Buonasera a tutti, magari mentre aspettiamo che le ultime persone prendano posto, comincerei col salutarvi, col ringraziarvi per essere qui così numerosi e ansiosi di assistere alla nostra presentazione di questa sera. Vi ricordo brevemente i prossimi appuntamenti organizzati da tutto lo staff della Biblioteca Provinciale per le prossime due settimane. Lunedì 24 febbraio alle 18 il professor Dobrilla presenterà il suo ultimo libro dedicato all'omeopatia. Giovedì pomeriggio proseguirà il corso che teniamo in biblioteca sulla biblioteca digitale, la piattaforma BiblioWeb. E vi aspettiamo dalle 15.30 alle 16.30, vi ricordiamo però che è necessario iscriversi preventivamente. E il 2 di marzo, sempre lunedì, alle ore 18, verrà presentato il progetto Drawdown. È un saggio molto corposo dedicato al riscaldamento globale e saranno presenti Massimo Brundisini e Rosanna Ghedina. E stasera abbiamo il piacere di ospitare l'autrice del libro La via della psicosintesi, Petra Guggisberg-Nocelli, che ci illustrerà appunto quella che è la disciplina fondata da Roberto Assagioli oramai parecchi anni fa, e portiamo avanti la nostra collaborazione interessante e proficua con l'Istituto di Psicosintesi di Bolzano. E vi auguro una buona serata e passo la parola alla nostra esperta e autrice. Prego. Dico due parole solo io. Buonasera a tutti, io sono Annalisa Gemma, la direttrice, come dico e amo dire, temporanea, perché ci sono sempre comunque dei mandati all'interno dei nostri centri, del centro di Bolzano che quest'anno compie ben 37 anni. A volte siamo un po' nascosti, bisogna arrivarci al centro di psicosintesi. È una via anche questa, la via della psicosintesi interiore a cui si bussa poi alla porta del centro e si incomincia una nuova vita. E rubo solo due minuti a Petra per invitarvi ad un evento importante del nostro centro. Quest'anno abbiamo l'onore di organizzare per l'Istituto di Psicosintesi Nazionale di Firenze il congresso nazionale. Quindi avremo il 25 di aprile, il 26 di aprile, maggiori psicosintetisti della nostra bella Italia, perché non dimentichiamo che la psicosintesi ha molto spazio e vive anche all'estero, non soltanto nell'area americana, ma ultimamente una grande espansione in Russia, in Ungheria e così via. Io sono molto felice di avere Petra stasera perché il suo libro La via della psicosintesi, che sembra voluminoso, in realtà si legge d'un fiato. È uno di quei libri che si tengono vicino al comodino e ogni tanto si riguardano. Petra ha avuto così anche la fortuna di studiare con tutti gli allievi diretti di Roberto Assagioli, quindi chi meglio di lei stasera può avviarci alla via della psicosintesi. Quindi ti lascio la parola e mi godo la conferenza. Le domande le faremo, penso, all'ultimo? Sì. Ecco, va bene. Certo. Grazie. Grazie a te, Annalisa. Sono contenta di essere qui, anche un poco nervosa, mi piace scrivere, quindi mi piace starmene a casa mia davanti al computer. Questa situazione invece è meno confortevole, però usciamo dalla zona di comfort. La psicosintesi ci insegna anche questo, giusto? Allora, vorrei iniziare raccontandovi un po' quale sarà la mappa del nostro viaggio cioè quello che, i punti che affronterò con voi questa sera. Inizierò cercando di contestualizzare la psicosintesi come visione che sorge all'inizio del Novecento e che propone una nuova visione dell'essere umano. Poi vedremo come la psicosintesi può essere definita, se può essere definita, e vi presenterò anche le mappe del viaggio che essa offre a coloro che hanno il desiderio di iniziare quell'avventuroso percorso del conosci, possiedi, trasforma te stesso. Parlerò un poco anche di Roberto Assaggioli, il fondatore, lo psichiatra che ha fondato la psicosintesi, e concluderò raccontandovi quello che è il nucleo centrale, se volete, dell'insegnamento e quindi le 7 esperienze fondamentali della psicosintesi. Allora, senz'altro Assaggioli non è stato il primo ad utilizzare il termine psicosintesi, sintesi mentale. Già Sigmund Freud, sapete bene il creatore della psicanalisi, aveva parlato della funzione sintetizzatrice dell'io, però riteneva che questa comparisse da sé spontaneamente una volta che si fossero corretti i vari meccanismi nevrotici grazie al lavoro di analisi. Carl Gustav Jung invece aveva cominciato a sottolinearla in maniera più decisa, affermava che ci voleva un lavoro attivo di costruzione e ricostruzione della personalità. Quindi fin dall'inizio il termine psicosintesi, scusate, c'è un fischio veramente fastidioso, non so se è possibile toglierlo. Quindi fin dall'inizio il termine è stato messo in relazione con una nuova immagine dell'uomo, a cui aderivano tutti quegli psichiatri e psicoterapeuti che accanto alla dimensione del sintomo, alla patologia e al passato, riconoscevano anche l'importanza del simbolo, della salute e del futuro, e che pur sottolineando le limitazioni, l'impotenza e il condizionamento che fanno parte della natura umana, mettevano però in luce anche le sue infinite possibilità di crescita, la dimensione di libertà, di responsabilità, di potere, di creatività che pur ci caratterizza. Quindi il termine psicosintesi, fin da subito, voleva indicare un approccio che accanto alla prospettiva analitica integrasse anche quella sintetica. Assaggioli è stato senz'altro lo studioso che più di tutti ha sistematizzato e sviluppato in maniera rigorosa questa visione integrativa e ha iniziato ad utilizzare ufficialmente il termine psicosintesi nel 1927, quando pubblica, dapprima in inglese, l'opuscoletto Un nuovo metodo di cura, la psicosintesi. In realtà erano già 20 anni che delineava il suo pensiero, ma fino ad allora lo aveva chiamato psicagogia. Invece, ufficialmente, nel 1927, inizia a delineare in questo opuscolo quelli che sono i punti fondamentali del suo approccio. Anzitutto, l'importanza di considerare l'interazione mente-corpo. Assaggioli sarà anche uno dei precursori della medicina psicosomatica in Italia. Dovremmo aspettare gli anni 60, qui siamo negli anni 20 e lui già ne parlava. Poi la necessità di integrare in maniera sistematica vari approcci e metodi. Assaggioli aveva già sperimentato la persuasione, la suggestione, conosceva già bene la psicanalisi, ma a questi metodi, diceva, dobbiamo anche integrare tecniche attive diverse, l'immaginazione, la visualizzazione, la meditazione, alcune delle quali mutuate anche dall'Oriente. L'obiettivo della psicosintesi non è più solamente l'eliminazione dei sintomi, dei disagi, ma è la formazione o ricostruzione dell'intera personalità dell'essere umano. Per Roberto Assaggioli era senz'altro importante chiedersi come e perché sviluppiamo dei sintomi, come e perché ci ammaliamo, ma era altrettanto importante, se non forse ancora più importante, chiedersi come e perché siamo sani, come e perché maturiamo, come e perché ci evolviamo e ci realizziamo sempre più pienamente. Per questo motivo la psicosintesi ha diversi campi applicativi, quindi non è solamente un metodo di cura per i disturbi psichici, psicosomatici, ma è anche un approccio educativo che si rivolge ai bambini, agli adolescenti e per l'educazione permanente degli adulti, un approccio autoformativo per lo sviluppo e la crescita personale, transpersonale, qualora ce ne fosse interesse, un metodo per l'armonizzazione dei rapporti interpersonali e di quelli sociali. Questi diversi campi applicativi ci fanno capire proprio la visione sistemica che la psicosintesi ha dell'essere umano, la visione ampia e integrativa che ha dell'essere umano e anche la sua vocazione molto pragmatica, molto concreta. Per questo motivo possiamo trovare figure di diverso tipo formate in psicosintesi, senz'altro medici, psichiatri, psicoterapeuti, counselor, però anche manager, coach. Parlavi prima dell'America, dell'Europa del Nord, dove il coaching sta prendendo veramente molto piede, ma anche operatori sociali, insegnanti, infermieri e così via. Adesso cerchiamo di vedere se possiamo definire la psicosintesi e come la possiamo definire. Tutti coloro che affrontano questo compito sono concordi su un punto: non è per niente facile. E cercherò di spiegarvi il motivo. Per rispondere a questa domanda, cioè se e come è possibile definire la psicosintesi, vorrei partire dalle primissime parole scritte da Sagioli stesso, quando appunto tentava di definire o definiva la psicosintesi. E lui inizia così, dice: possiamo innanzitutto indicare, e poi continuava, e non definire, perché tutte le definizioni sono limitate e limitanti la psicosintesi come. E vorrei fermarmi un attimo su questa distinzione, forse banale, apparentemente banale, tra indicare qualcosa o definirlo, perché ci permette di mettere a fuoco alcuni punti importanti proprio del procedere psicosintetico. Il primissimo punto è la grande attenzione, la grande cura che Assagioli metteva nella scelta delle parole. Lui sceglieva le parole con grandissima accuratezza, perché era appassionato di etimologia, appassionato di semantica e quindi aveva pienamente colto il valore simbolico del linguaggio, quindi l'importanza di distinguere le mappe o la carta del menu, come l'ha chiamata Bolzano? Menu? Speiseliste. Quindi le parole dal territorio che poi andiamo ad esplorare o dalle pietanze che ci vengono servite a tavola. Soprattutto quando si tratta di una realtà così complessa e variegata come quella della psiche umana. Quindi le parole in quanto simboli possono velare, confondere la realtà oppure rivelarla. E per Assagioli, questo è il secondo punto importante, qualcosa che io personalmente amo molto, per Assagioli le parole che sono in grado di svelare la realtà, cioè di condurci ad una esperienza esistenziale autentica, trasformativa, sono quelle che rispettano il criterio di universalità, cioè quelle parole, quel linguaggio che può essere recepito dal maggior numero di persone possibili, indipendentemente dai loro gruppi di appartenenza, siano essi culturali, politici, etnici, religiosi e così via. E allora proviamo a procedere in modo psicosintetico. Secondo voi qual è la differenza di significato che si cela dietro queste due parole? Cosa significa definire? Cosa significa indicare? Interagite un po' insieme a me, faccio lavorare un po'. Che dite? Ma definire una, cioè, penso un contorno è ben definito, per esempio. È indicato, uno può indicare, però non è che è preciso nella. Bravissimo. Hai fatto anche i gesti, eh? Sì, hai fatto i gesti. Proprio pum. Esatto, sì, sì. Definire deriva dal latino finis finis, che è proprio la delimitazione di un campo. Quindi, oppure anche in senso di terminare. quindi proprio di finire, rimandando alla morte. Quindi definire significa limitare, circoscrivere, portare a termine, risolvere, sciogliere i dubbi. Una cosa è così, punto. Invece indicare, tu mostravi l'indice, deriva proprio dal latino index indicis, che è colui che indica, no? Colui che rivela. E quindi rimanda piuttosto al significato di accennare, mostrare, suggerire qualcosa. Infatti abbiamo anche poi i termini abbinati, indizio, indicativo. Vedete, questo è importante. Noi possiamo definire, circoscrivere, come dicevi bene tu, gli oggetti che sono inerti, morti. Invece i soggetti che sono vitali, in continuo movimento, possono solamente essere indicati. Non possiamo afferrare un soggetto una volta per tutte. E infatti, questo è il terzo punto che mi premeva sottolineare, la psicosintesi va considerata come un sistema vivente, quasi un soggetto in qualche modo. Quindi vivo, vitale e in continua evoluzione, interagendo costantemente con l'ambiente che la circonda. Poi vi spiegherò in che modo, quali sono le caratteristiche che determinano questa costante interazione. E infine ricostruire il significato etimologico di questa diversità tra indicare qualcosa o definirla ci permette anche di mettere a fuoco un ultimo punto, e cioè il rapporto che in psicosintesi intercorre tra l'esperienza esistenziale e la conoscenza teorica. Questo è anche importante. Quindi una conoscenza che non trova una diretta applicazione nella nostra vita quotidiana, che non trasforma davvero la nostra coscienza, che non allevia la sofferenza degli individui, una teoria che non riesce davvero a promuovere un'armonizzazione reale, è lettera morta, è un accademismo sterile. Quindi in psicosintesi la conoscenza intellettuale, lo studio, che pur sono importantissimi, devono però essere sempre funzionali poi a un'esperienza esistenziale diretta, vitale, che ci muove lungo il cammino della psicosintesi, lungo il nostro cammino in realtà. Tant'è che a Saggioli definiva la psicosintesi una prassi di vita. Anzi, ho trovato in questo libricino, di cui poi vi leggerò un piccolo estratto, molto bello, non so se l'avete qua, Roberto Saggioli racconta se stesso. A Saggioli diceva del suo modo di lavorare: ho provato ad essere intelligente senza essere intellettuale. E credo che qui proprio riassume bene il suo spirito più profondo. E allora proviamo ad andare oltre e a vedere come la psicosintesi appunto l'ha poi indicata a partire dal 1927, data che, come vi dicevo, segna un po' la nascita ufficiale di questo approccio. E l'ha fatto in maniere diverse, più o meno ampie, e io ho cercato di organizzarle partendo da quelle più generali per poi arrivare a quelle più tecniche, specifiche. Quindi diceva: possiamo indicare la psicosintesi come l'espressione di un generale principio di organizzazione, integrazione e sintesi che agisce a vari livelli. E direi che mai come in questo momento storico il riconoscimento di come agisca questo processo di organizzazione, integrazione e sintesi è stato importante e significativo. Noi viviamo in un'era di transizione che è caratterizzata dai profondi cambiamenti che il processo di globalizzazione porta con sé. Forse il travaglio di dare alla luce una coscienza che abbia un'estensione planetaria. Quindi non ci troviamo ad affrontare solamente temi caldi che in realtà sono già noti: disuguaglianze socio-economiche, disuguaglianze di genere, guerre, migrazioni di massa, intensi cambiamenti climatici, avrete la presentazione. Ma soprattutto noi stiamo affrontando la portata globale di questi temi. Io credo davvero che questo impatto globale sia la differenza sostanziale rispetto al passato. Anche nel passato c'erano migrazioni, guerre, no? Ma non c'era ancora questa dimensione globale. E quindi questo stato di cose incide profondamente su di noi, modella i nostri bisogni, costella nuovi bisogni. E io credo che la psicologia e le altre discipline scientifiche abbiano proprio il compito etico di interrogarsi profondamente su questo stato di cose, per offrire visioni, per offrire risposte che siano meditate, che siano articolate, che possano essere efficaci. Non si tratta più solamente del bene e della salute dei singoli individui, ma si tratta ora veramente anche del bene e della salute dell'intero gruppo umano e di tutti gli esseri che abitano questo pianeta. E quindi è per questo che secondo me la psicosintesi rivela oggi, forse ancora più che in passato, la sua estrema attualità e anche il suo essere un dono prezioso, proprio per questa costante tensione verso l'integrazione, l'organizzazione e la sintesi. Psicosintesi può quindi essere indicata soprattutto come un movimento, una tendenza, una meta che si traduce in un atteggiamento ed una lenta conquista verso l'integrazione e la sintesi in ogni campo. E vediamo. La Saggioli diceva, anzitutto nel campo del sapere umano, per favorire quindi l'integrazione della psicologia con le altre scienze e con la filosofia, la spiritualità e l'arte. E questa è quindi la prima caratteristica che indica la psicosintesi, l'interdisciplinarietà, il costante dialogo tra approcci diversi, diversi punti di vista, di studio, per superare la frammentazione del sapere. E l'approccio interdisciplinare è quanto mai attuale. Magari avete sentito, la teoria della complessità parla di una nuova alleanza tra la scienza e la filosofia. Le frontiere della fisica quantistica dialogano con le più antiche tradizioni spirituali. La psicologia, la psicoterapia con le neuroscienze, addirittura in biologia si sembra scoprire che perfino gli invertebrati possiedono una libera volontà. C'è un articolo fantastico al merito questo. Ma quando Saggioli parla di integrare la psicologia con le altre scienze, con la filosofia, la spiritualità e l'arte, di che tipo di psicologia sta parlando? Di una psicologia che sia anch'essa, vedete questo continua tensione alla sintesi, che sia anch'essa una sintesi di tutti gli elementi positivi, costruttivi, esistenti in ogni scuola e movimento, con l'intento di integrare la psicologia europea con quella americana e quella orientale. E oggi potremmo aggiornare queste indicazioni aggiungendo anche gli altri due continenti, l'approccio etnopsichiatrico, le psicologie indigene, le psicologie sciamaniche che al tempo di Assagioli non si erano ancora sviluppate. Quindi dopo l'interdisciplinarietà, la seconda caratteristica importante che indica la psicosintesi è l'interculturalità, l'internazionalità. Anche questo senz'altro un tema attualissimo. Molto probabilmente Assagioli aveva l'intenzione di creare una psicologia che avesse un respiro planetario. E dopo aver visto come la psicosintesi si caratterizza nella sua interazione con l'ambiente che la circonda, vediamo adesso invece che visione propone delle interazioni che avvengono all'interno di noi esseri umani. E quindi, psicosintesi è anche una concezione dell'uomo, quale essere biopsicosocio-spirituale, da cui la più completa dicitura biopsicosintesi. Quindi vede l'uomo come un essere che ha una dimensione biologica, corporea, una dimensione psicologica, inserito in un contesto sociale di fittissime relazioni e poi una dimensione di apertura transpersonale o spirituale. E poi psicosintesi è anche una concezione dinamica, drammatica della vita psichica, laddove per drammatica si fa riferimento all'arte drammatica, non nel senso di tragica, demoralizzante. Quindi l'arte della recitazione. Infatti vede la vita psichica come lotta tra una molteplicità di forze, ribelle, contrastanti, che sono i vari ruoli che noi abbiamo nella nostra vita, che sono i vari personaggi interiori che si avvicendano sul nostro palcoscenico, e un centro unificatore, poi approfondirò l'io sé, che tende a gestire queste varie personalità, questi vari aspetti, a comporli in armonia e ad utilizzarli nei modi più utili e creativi. E questa è l'azione della volontà. E infine psicosintesi è anche un insieme di strumenti, quindi di metodi, di tecniche, volti a promuovere l'integrazione, lo sviluppo armonico della personalità umana. Ma sebbene la psicosintesi recepisca i contributi quindi di altre discipline, di altri orientamenti, è molto importante tenere presente che il nucleo centrale che ne forma l'essenza è originale, altrimenti rischiamo di averne una visione distorta, una visione diluita. Non è un ecletismo eterogeneo, un'accozzaglia di strumenti messi insieme un po' così a caso come viene. La psicosintesi è veramente una visione complessa, sistemica, sintetica dell'essere umano che viene rappresentata principalmente nei due diagrammi, il diagramma dell'ovoide e il diagramma delle funzioni psicologiche, e nelle sette esperienze fondamentali che costituiscono la condizione sine qua non del suo percorso. Chi di voi conosce già questi diagrammi? C'è qualcuno di voi che non li ha mai visti? Tutti gli altri? Ah sì, qualcuno... D'accordo. Allora ve li racconto. No, perché se mi dicevate che eravate già tutti... Poi eravate già tutti formati... Si passava all'altro. Vabbè, un ripassino. Sì, no, è vero. Fa male. Un ripassino non fa mai male. Allora, iniziamo... dal punto di riferimento da cui comincia questo viaggio del conosci, possiedi, trasforma te stesso. Vedete, è una concezione pluridimensionale della personalità umana. E provate ad immaginare questo diagramma come il tentativo di rappresentare la nostra struttura biopsicosocio-spirituale come un edificio. Allora, iniziando al primo numero uno, troviamo i sotterranei, le cantine, che in psicosintesi viene definito inconscio inferiore, che sostanzialmente corrisponde all'inconscio così come l'aveva definito Freud. Nell'inconscio inferiore troviamo le attività psichiche intelligenti che regolano la vita organica, troviamo gli istinti, le pulsioni fondamentali, quelli che condividiamo con i nostri amici animali, l'istinto di sopravvivenza, la pulsione sessuale, la pulsione aggressiva. Nell'inconscio inferiore troviamo anche il passato psichico, in particolare i conflitti, i traumi che abbiamo dovuto rimuovere per sopravvivere, i complessi a forte tonalità affettiva e anche tutte quelle abitudini, gli automatismi. Una cosa che tengo molto a sottolineare è che la dicitura inferiore non ha in nessun modo una connotazione morale. Vero che dico no? Inferiore, poi arriverà il medio e il superiore, uno dice inferiore non è bello, non va bene, e invece no, è semplicemente proprio lo stare a fondamenta dell'intera struttura ed è ciò che permette alla struttura di crescere. Non cresciamo senza radici. Salendo nel nostro edificio arriviamo al pian terreno, l'inconscio medio. L'inconscio medio può essere definito come il grande archivio della memoria. Quindi nell'inconscio medio sono stoccate tutte quelle informazioni di cui non abbiamo la necessità di essere consapevoli nel momento presente. Ciascuno di voi ha per esempio in mente tutti i nomi dei suoi amici e dei suoi familiari, ma non li ha presenti in ogni istante. Di solito sono nell'inconscio medio, ma a necessità possono entrare nel campo di consapevolezza. Inoltre, nell'inconscio medio avvengono l'elaborazione delle esperienze fatte, la preparazione delle attività future, il lavoro intellettuale, il lavoro creativo. Proseguendo nella scoperta del nostro edificio, saliamo ancora un po' ed arriviamo Assaggiare lo definiva l'attico con ampie terrazze, che è l'inconscio superiore. E questa è una nozione squisitamente psicosintetica. L'inconscio superiore è la dimensione transpersonale, noetica, spirituale, ma qui vorrei fare una precisazione. Nell'inconscio superiore non troviamo solamente i contenuti legati a esperienze mistiche, stati di illuminazione o esperienze religiose, ma troviamo anche esperienze, contenuti di altra natura, per esempio l'impulso all'azione eroica, umanitaria, etica, le esperienze estetiche, la creazione artistica, la spinta a esplorare l'ignoto, il gioco, le grandi intuizioni scientifiche, quindi non ha una connotazione solamente spirituale in senso stretto. Ed è anche un po' la nostra dimensione futura, in esso sono contenuti tutti quei talenti, quelle potenzialità, quelle caratteristiche che non abbiamo ancora realizzato pienamente, ma che attendono lì come dei semi pronti a germogliare se cominciamo a coltivarli con gli strumenti che decidiamo di darci. Invece quel circolino, vedete, quel circolino, la circonferenza rotonda al centro, è un po' la stanza in cui ci troviamo nel momento presente, il campo di coscienza. Quindi nel campo di coscienza, con campo di coscienza si definiscono quei contenuti di cui noi siamo consapevoli nel qui ed ora. Per esempio, nel vostro campo di coscienza, qui ed ora è presente la mia voce che parla, si spera, a meno che non siete già con la mente, oppure potrebbe essere presente la pizza che andrete a mangiare fra poco, ci sono le immagini che vengono proiettate. Il campo di coscienza, quando ci concentriamo, può restringersi mandando il resto, gli altri contenuti nell'inconscio inferiore, oppure nell'inconscio medio, oppure può allargarsi fino a comprendere porzioni sempre più ampie della realtà, quindi a dimensioni variabili. E al centro del campo di consapevolezza che cosa troviamo, secondo voi? Chi non ha mai visto l'ovoide però può rispondere. Gli altri non vale. Io non ho mai visto. L'attenzione. L'attenzione? Sì. L'io sé. E potremmo definirlo un po', di cui l'attenzione, la presenza è senz'altro una qualità importantissima. Potremmo definirlo l'inquilino, è l'abitante di questo edificio. La manifestazione più diretta, più immediata dell'io sé è quella sensazione di fondo che, nonostante tutti i cambiamenti che noi attraversiamo nel corso della vita, a livello fisico, a livello di desideri, a livello di emozioni, a livello di idee, di opinioni, nonostante tutti questi cambiamenti, alla fine noi però siamo sempre noi. E questa distinzione tra i diversi contenuti psichici, cioè tra le emozioni, le sensazioni, le idee e il soggetto che percepisce queste emozioni, queste sensazioni e che può anche agire su di esse, è fondamentale in psicosintesi. L'io viene anche definito come centro di pura autoconsapevolezza e volontà. E però c'è un problema, non so se ve ne siete accorti, che la nostra capacità di esercitare la nostra autoconsapevolezza e la nostra volontà varia moltissimo da momento a momento. Non è una quantità stabile. Perché? Perché in psicosintesi si ritiene l'io essere un riflesso del padrone di casa, il sé. Cioè in realtà l'io è quella quantità di sé transpersonale, cioè quella quantità di consapevolezza, volontà e aggiungerei amore, che noi riusciamo a realizzare in ogni momento, e ogni momento è diverso dall'altro. In certi momenti la nostra capacità di realizzare questa autocoscienza e volontà è molto elevata e in altri momenti magari un po' meno, no? Almeno, insomma, a me succede così, anche a te. E più è rendersene conto di quando accade, ecco, esatto. Che questo poi è l'altro passaggio. Esattamente, fondamentale. E perdonarsi. E perdonarsi. Altro passaggio importante. Il sé transpersonale, in realtà è molto difficile definire sé transpersonale, vi ricordate cosa dicevo prima? Possiamo definire gli oggetti, che sono i contenuti psichici, mentre il soggetto in realtà in qualche modo può solo essere indicato. E infatti altri tipi di linguaggio, il linguaggio artistico, la poesia, la musica, riescono in qualche modo forse meglio a farci intuire che cosa sia il sé. Provando a definirlo, potremmo dire che il sé è la nostra essenza più autentica, al di là di tutte le maschere, dei condizionamenti, il nostro volto originale. Una definizione che mi piace è anche il sé come il più ampio centro di sintesi della nostra personalità, quello che consente l'esperienza della nostra totalità, della nostra completezza. E infine troviamo l'inconscio collettivo, che è un po' la città forse in cui sorge il nostro edificio, il quartiere. Nell'inconscio collettivo Assagioli riprende un concetto già elaborato da Carl Gustav Jung, però ne introduce delle distinzioni fondamentali e dice: nell'inconscio collettivo ci sono dei contenuti che riguardano il passato dell'umanità, quindi sono dei contenuti arcaici, primitivi. Poi ci sono dei contenuti invece che riguardano lo stato dei tempi, quindi l'inconscio collettivo medio. E poi ci sono dei contenuti invece che riguardano le potenzialità future dell'umanità. E poi sta a noi realizzarle. Un'ultima cosa che vi racconto delle volte, vedete che tutte le linee sono tratteggiate ad indicare che in realtà vi è un continuo movimento tra i vari livelli. Non si tratta di posizioni statiche, ma la vita, gli stimoli oppure anche la decisione di intraprendere un percorso di ricerca, un percorso personale, portano i diversi contenuti a spostarsi, a riorganizzarsi, idealmente in una più ampia e matura sintesi della personalità. Il secondo diagramma che Assagioli propone, ci ha proposto per aiutarci ad orientarci in questo viaggio del conosci, possiedi, trasforma te stesso, è la stella delle funzioni psicologiche. Anche in questa visione si accosta in parte a Jung, tra l'altro poi vi racconterò, loro sono stati in rapporti amichevoli per quasi tutta la vita. Jung infatti aveva definito quattro funzioni: la sensazione, il sentimento, l'intuizione e il pensiero. Assagioli ne aggiunge altre tre: l'immaginazione, ed era parecchio stupito che Jung, così interessato ai simboli, all'immaginazione creativa, non l'avesse inserita tra le funzioni. Aggiunge anche la funzione impulsiva e poi la funzione volitiva. Allora, iniziamo dalla prima. La funzione sensomotoria. La funzione sensomotoria riguarda tutte quelle informazioni che noi riceviamo dall'ambiente esterno attraverso i sensi, quindi quello che possiamo vedere, che possiamo ascoltare, quello che possiamo toccare. Non solamente, ma anche tutte le indicazioni che riceviamo dal corpo, quindi il calore, il dolore, l'equilibrio, il movimento, il battito cardiaco, la respirazione e così via. Proseguendo troviamo la funzione impulso desiderio. La funzione impulso desiderio è la sede di quelle memorie genetiche, di quelle memorie che ereditiamo geneticamente e che ci permettono di reagire alle situazioni senza apprendimenti. Di nuovo parliamo di istinti, l'istinto di conservazione, l'istinto riproduttivo, la pulsione aggressiva. Però non ci sono solamente queste caratteristiche. Nella funzione impulso desiderio troviamo anche desideri di altra natura e poi le aspirazioni più elevate. Vedete, provate ad immaginare di sovrapporre un ovoide a ciascuna delle varie funzioni. Ci sono contenuti di natura molto diversi. Alcuni contenuti della funzione impulso desiderio sono rimossi, altri sono facilmente accessibili alla coscienza, altri invece sono desideri o aspirazioni potenziali che ancora non abbiamo contattato e realizzato. La stessa cosa accade per la funzione emozione sentimento. In questa funzione troviamo le emozioni primarie che immagino sappiate, sono la rabbia, la tristezza, il disgusto, la felicità, la paura, l'interesse. Queste sono le sei emozioni di base, poi vabbè, ogni autore propone la sua, però più o meno. Poi ci sono emozioni secondarie, un po' più articolate, complesse, quale per esempio l'allegria, piuttosto che l'invidia, la gelosia, la speranza, e via via troviamo poi sentimenti più elevati, la compassione, il sentimento di libertà, il sentimento di umiltà, la generosità, il perdono. Proseguendo troviamo appunto la funzione immaginativa, che è una funzione importantissima in psicosintesi. L'immaginazione è la capacità di riportare davanti agli occhi della mente persone, oggetti, percezioni che non sono presenti nel momento, ma non si tratta solo di immagini visive. In realtà noi possiamo anche ricreare immagini uditive, possiamo adesso per esempio sentire lo scorrere di un ruscello o lo stormire delle fronde, immagini olfattive, possiamo immaginare di annusare una rosa. E oltre che riproduttiva, la funzione immaginativa ha anche una capacità creativa, cioè riesce a combinare le diverse memorie per generare il nuovo. E questa capacità dell'immagine di muovere, e poi dopo vi proporrò un piccolo esperimento, questa capacità dell'immagine di muovere la nostra psiche è qualcosa che la psicosintesi utilizza moltissimo. Tant'è che le tecniche appunto di visualizzazione, di meditazione, il lavoro con i simboli, sono tutte legate proprio a questa capacità dell'immagine di muovere le altre funzioni. Poi vedremo come funzionerà l'esperimento che vi voglio proporre. Proseguendo la funzione pensiero, la capacità di riflettere, ragionare, di elaborare le conoscenze, di attribuire significati, la funzione pensiero ha una duplice natura, c'è una parte concreta legata al pensiero logico, razionale, e poi c'è una parte astratta invece, il pensiero analogico, il pensiero simbolico. E infine la funzione intuitiva. La funzione intuitiva, intuire significa vedere dentro, cioè la capacità di percepire una totalità in maniera diretta, immediata, a differenza della funzione pensiero che analizza e poi compone le parti. E la funzione intuitiva è anche la funzione privilegiata che permette di entrare in relazione con il sé, con la dimensione transpersonale. Vedete, tutte queste funzioni sono disposte a corona attorno alla funzione per eccellenza, che in realtà è la metafunzione, e cioè la volontà. La volontà si definisce la funzione dell'io. In realtà a me piace definire la volontà come il movimento dell'io, perché l'io e la volontà sono un'unica cosa, allora sembra sempre che siano due cose diverse, no? Cioè sono io, poi c'è la volontà. Invece sono io che mi muovo, no? Quindi il movimento dell'io che dirige, equilibra, regola tutte le varie funzioni, no? Armonizzandole verso gli obiettivi, le mete che via via scegliamo di realizzare nella nostra vita. Vedete che tutte le funzioni sono rappresentate, identiche. Questo a sottolineare due cose. Anzitutto che sono analoghe per importanza e per significato. Di nuovo, non ci sono funzioni nobili e funzioni meno nobili. E poi anche perché il modello ideale che ci deve in qualche modo guidare nel lavoro che possiamo svolgere su noi stessi è questo. E questo è il modello ideale. Cioè un essere umano che abbia sviluppato al meglio tutte le possibilità che ha per contattare l'esistenza e l'esperienza. In realtà ciascuno di noi si trova una stella personalizzata in base a quello che quelle che sono le sue inclinazioni personali, alle esperienze che ha svolto, ha avuto durante la vita, in base ai feedback educativi che ha ricevuto, e quindi ci saranno tipi più intellettuali legati alla funzione pensiero, tipi più impulsivi che magari non hanno mai sviluppato invece o l'hanno sviluppato poco la funzione immaginativa, tipi più intuitivi e così via. E adesso volevo appunto proporvi un piccolo esperimento per vedere come funzionano poi le interazioni tra tutte queste varie funzioni, perché non restano così inerti, ma ci sono degli scambi costanti. Le immagini, le idee tendono ad attivare il corpo poi tende ad intensificare le immagini, le emozioni e i sentimenti evocano dei pensieri, questi pensieri attivano i desideri. Quindi c'è una costante interazione tra tutte queste diverse funzioni. Allora, vediamo un po'. In realtà avevo messo due serie di immagini, però prima di iniziare la conferenza l'ho tolta, perché alle volte avevo messo una serie di immagini abbastanza crude, che rimandano ad altri, e poi queste. Però oggi non so, si vede che ero in fase... La percezione è questa. E allora vi propongo solo la serie positiva e vi chiedo, osservando queste immagini, ditemi che cosa accade nel corpo. Chiaramente le persone più sensoriali saranno più attive su quello, no? Cos'è che succede nel vostro corpo osservando queste immagini? Sentite qualcosa? Fresco. Ah, ok. Sensazione di freschezza. Sì, c'è un blu. Movimento, espansione, sì. Quindi vedete come l'immagine ha in sé un elemento motore che muove il corpo, ma non muove solo il corpo, muove anche i desideri. C'è qualche desiderio che si attiva osservando queste immagini. Quelle più forti, appunto, quelle che di solito presento prima la sequenza in bianco e nero, un po' più. E lì, come dire, l'impatto. Le risonanze sono più intense e anche il passaggio poi alle immagini, come dire, diverse, si sente molto meglio. Però sono oggi così, mi sento buona luce. Sei buona oggi. Desideri? Che desideri si attivano? Non è detto, non è mica detto, però qualche desiderio. Desiderio di ridere. Desiderio di rotolarsi in un campo. Camminare a piedi scalzi nell'erba. Desiderio di camminare a piedi scalzi nell'erba, sì. Emozioni? Che qualità emotiva risuona? Non deve essere un vissuto travolgente, ma che qualità emotiva risuona osservando queste immagini? Spensieratezza. Gioia. Vitalità, bello, sì. Pensieri, qualcuno di voi ha formulato? Coinvolgimento. Qualcuno? Connessione. Sì. E qualcuno di voi ha anche formulato dei pensieri? Pensatori, non siate timidi, notoriamente sono introversi i pensatori, abbiamo un pensatore. Per me tre immagini sono false. Pensiero, tre immagini sono false. Ah, sì. Esatto, il pensiero all'opera, analizza, no? Analizza, critica, mette in discussione, esattamente. Quali sono le immagini false? Sono curiosa adesso. Quali sono? Beh, per te quali sono? Sempre un po' di dire al quale siamo ormai abituati da decenni. Quindi dici viste, riviste? Non solo quello, ma che secondo me non rendono poi le immagini. Cioè, per me è un po' stanno facendo sul viso, l'atteggiamento, essendo stato un po' dalla loro parte. Quella centrale alla fine sono le fotografie che riguardano appunto gli esseri umani, che oggi diventa sempre più difficile portare fuori. Vivere. Sì. Ecco, sì, grazie. Vedete quindi quante riflessioni possono anche generarsi, no? Osservando un'immagine. E ciascuno ha le sue. Non è che ci siano riflessioni corrette, sono giuste, perché sono quello che attivano in noi. Bene. Adesso volevo proporvi, io non so se pensi che possa essere il caso, avete voglia di fare 10 minuti un esercizio? Sì? Vi va? Chi non vuol farlo, libero, beh, niente, è libero di non farlo. Se no sarebbe obbligati tutti a lavorare, ai lavori forzati. Vorrei farvi un esercizio che è un'esplorazione un po' adesso di quello che è presente nel qui ed ora. Quindi ripercorreremo molto brevemente le varie funzioni psicologiche per poi provare ad evocare un po' una esperienza di centralità. Però non entrate nella performance, eh? Quindi osservate in realtà ciò che si presenta così come si presenta. Chi di voi se la sente può chiudere gli occhi, chi si sente più a suo agio con gli occhi chiusi, ci sono persone che in queste situazioni non gli va bene, va benissimo. Se riuscite, abbassateli semplicemente così un po' davanti a voi, come a favorire un piccolo momento di contatto, di ascolto con voi. E quindi cominciamo un po' a portare l'attenzione al corpo e alle sensazioni e semplicemente prendiamoci del tempo per osservare lo stato del nostro corpo e le sensazioni che sono presenti in questo momento, senza fare nulla. Proprio assumiamo questa posizione dell'osservatore, senza voler modificare nulla. E osserviamo anche se ci sono dei desideri in questo momento. Osserviamo con apertura, con curiosità. Passiamo alla tonalità emotiva, alle emozioni, ai sentimenti che colorano il nostro essere nel qui ed ora. Qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento è benvenuto, siano esse positive, negative, neutre. E chissà, forse ci sono anche delle immagini, delle fantasie, dei ricordi che si attivano. Pensieri, commenti mentali su quello che stiamo facendo. Ed ora portiamo l'attenzione sull'espirazione, cerchiamo di allungare un poco le espirazioni ed espirando lasciamo andare tutto quello che in questo momento è completamente inutile. Partiamo dal corpo e permettiamoci tutti quei piccoli movimenti, soprattutto nella zona delle spalle, del collo, dove spesso accumuliamo tante tensioni, ed espirando lasciamo andare. Mettiamoci meglio che possiamo a nostro agio. Ed espirando lasciamo andare anche con le tensioni, le distrazioni, le preoccupazioni, almeno per lo spazio di questo breve esercizio. Ed ora portiamo l'attenzione sull'inspirazione. Inspirando percepiamo l'aria fresca che entra nelle nostre narici, Ed inspirando è come se entriamo dentro di noi, entriamo in contatto con noi stessi. Inspirando è un po' come se simbolicamente ci radichiamo nel nostro centro, un luogo calmo, vitale, sicuro. Inspirando, sempre più profondamente in contatto con noi stessi. E proviamo a identificare la zona del corpo che in questo momento è il punto più stabile, più vitale e sicuro. Può essere qualsiasi punto del corpo, dalla sommità della testa fino alla pianta dei piedi. E una volta che avete identificato questo punto del corpo, lasciamo riposare l'attenzione per un po' in questo centro interiore. E se ci aiuta possiamo anche portare una mano a contatto con quella zona del corpo. Espirando ci liberiamo dalle distrazioni, dalle cose superflue, inspirando sempre più radicati nel nostro centro, in quel punto del nostro corpo che qui ed ora è il punto più calmo, più vitale e più stabile. Ed ora lasciamo che, non importa come, non importa quale, si formi un'immagine che rappresenti simbolicamente questo essere centrati, presenti, svegli. Lasciate che si formi un'immagine che rappresenta simbolicamente il vostro essere radicati nel centro. Può essere l'immagine di qualsiasi cosa. Osservate con curiosità l'impressione generale, i dettagli. E infine, prima di concludere l'esercizio, lasciate che una breve frase o anche una semplice parola esprima questa esperienza. Io sono, io mi sento. Come completate la frase? E ripetetela alcune volte mentalmente in modo da fissarla nella vostra memoria. Io sono, io mi sento. Ed ora, lentamente, prendete contatto con i vostri piedi che poggiano sul pavimento, muovete le dita dei piedi, curate bene la ripresa, muovete le dita delle mani, proprio come se vi state risvegliando da un buon sonno, ruotate le caviglie, questo è importante per non rimanere intontiti, stendete le braccia davanti a voi, aprite e chiudete i pugni, risvegliamoci tutti, perché sono... stiracchiamoci un pochino e poi ritorniamo con la consapevolezza in questa stanza. Com'è andata? Siete riusciti a seguire? Com'è stata l'esperienza? Non ci sono esperienze che sono andate bene e esperienze che non sono andate bene. Ogni esperienza va bene in sé. Siete riusciti a identificare il punto del corpo che in questo momento era il punto più calmo, più stabile, più vitale? Sì? Avete voglia? Qualcuno ha voglia di dirmi? Così vediamo un po' anche quali sono questi punti. Te la senti? Vedevo qualcuno che accennava, forse non lo vuol dire. Qualcuno se la sente? Oh, io? Sì? Ma inizialmente ho fatto fatica. Mm-hmm. E poi sentivo un peso allo stomaco. Sì. Durante la respirazione, no? Soprattutto nell'ispirazione mi sentivo lo stomaco come risucchiato e mm-hmm. poi buttavo fuori l'aria, no? Mm-hmm. Poi verso la fine stavo bene. Ok. Quindi ho praticamente rilassato la parte del diaframma perché ero un po' agitata. Quindi ti eri resa conto che sì, c'era un c'era movimento lì. Brava, insomma. Mm-hmm. E poi ho raggiunto diciamo una fase di pace, di tranquillità. Ah. Quello che è. Sì. È emersa un'immagine che rappresentava questa esperienza dell'essere centrata. Mi vedevo me stessa, sì, di schiena, okay, rilassata. Ok, bene. Qualche altra immagine? Qualcun altro che ha voglia di condividere? Non siate timidi. Come immagine io percepivo sempre qui a livello, diciamo, del diaframma. Sì. Come una palla morbida però, gialla arancio, cioè una cosa bella, piacevole, che girava su se stessa, come se facesse un bel massaggio interiore, dava con una luce, forza. Sì, sì. Quindi circolarità. Sì. È emerso. Sì, esatto, è emerso, non è che l'idea era quella di stare con l'esperienza e di osservare che cosa accadeva, no? Sì. Qualcun altro che voglia dire qualcosa? Per me sì? Il respiro proprio collegato molto, quindi rispetto alle tre indicazioni, la parte più calma, stabile, evitare. Mm. Contatto con l'esterno e con l'interno. Con un movimento gentile. Bene. Ecco, di vita e al tempo stesso non so se è tranquillo. Grazie. Bene. Lasciatemi vedere che si sono fatte. Bene. Allora. Adesso invece vorrei proseguire raccontandovi un po' chi è stato Roberto Assaggioli, il fondatore della psicosintesi. Allora, alcuni potrebbero definirlo come uno dei primissimi psicoanalisti italiani, altri invece potrebbero definire Assaggioli come uno studioso e un praticante di meditazione. Assaggioli è stato un pragmatista, ma anche un mistico, un precursore della medicina psicosomatica, ma anche un astrologo, un pioniere della psicologia umanistica e transpersonale, un amante dell'avventura, uno psichiatra, uno scienziato, un educatore, una guida spirituale. Insomma, alla fine, Roberto Assaggioli, chi è stato veramente? E procediamo con un'operazione fondamentale in psicosintesi e quindi distinguiamo i diversi volti, le diverse facce, i diversi ruoli che Assaggioli ha assunto durante la sua vita dalla sua essenza più intima e profonda. E quindi a questa domanda noi potremmo rispondere: Assaggioli è stato semplicemente se stesso, un essere unico, originale, irripetibile, proprio come ciascuno di noi. Quando stavo scrivendo il secondo libro e mi chiedevo come poter raccontare la sua storia, mi sono lasciata guidare dall'immagine metaforica dello sviluppo di un albero e ho quindi deciso di suddividerla in quattro parti diverse. Seminare, il periodo della prima giovinezza; germogliare, il periodo in cui cominciano a emergere i primi frutti delle sue riflessioni intellettuali; potare, che poi vi racconterò, è stato il periodo più senz'altro più difficile e oscuro della sua vita; e infine fiorire. Iniziamo dalla prima parte. Allora, Roberto Assaggioli è nato a Venezia da genitori ebrei nel 1888. All'età di 2 anni perde improvvisamente il padre e dopo poco tempo la madre si sposa con il medico Emanuele Assaggioli, da cui Roberto deriverà poi il suo cognome. Nel 1904 la famiglia si trasferisce da Venezia a Firenze per consentire a giovane Roberto di frequentare la facoltà di medicina. A quel tempo a Venezia non c'erano ancora queste facoltà. Come emerge da una recente pubblicazione, un'intervista concessa pochi mesi prima della sua morte al giornalista inglese Eugene Smith e pubblicata penso l'anno scorso. Se la trovate qui, io vi consiglio di acquistarla perché è una lettura che a me è piaciuta molto, tant'è che ve ne leggerò anche un piccolo estratto. Assaggioli era un giovane uomo estremamente curioso, dotato di un grande senso dell'umorismo, attratto dai viaggi, dall'avventura. E per esempio, appunto, durante un suo viaggio in Russia, in compagnia di un'amica, si ritrovò addirittura coinvolto in modo indiretto nell'assassinio del primo ministro d'allora, il ministro Stolypin. Allora vorrei così leggere un po', perché trovo che permette di avere una fotografia di lui giovane, ma in più raccontata comunque da un uomo che a quel tempo dell'intervista aveva ormai 85 anni. Allora, lui diceva: ero sempre stato interessato alla psicologia russa, avevo letto Tolstoi, Dostoevskij, soprattutto ero stato molto colpito e affascinato da Dostoevskij, una psicologia così complessa e tormentata, così diversa da quella occidentale, che era invece molto più superficiale e volevo andare a scoprirla di persona. Nel mio ultimo anno di università avevo conosciuto 2 o 3 studenti russi. Una di loro era eccezionale anche secondo i loro criteri. Era una donna sposata ed era stata a capo di un'organizzazione studentesca rivoluzionaria femminile. A un certo punto fu scoperta e messa in prigione, ma era incinta, così poté ottenere un permesso temporaneo. Naturalmente, appena uscita di prigione, fuggì all'estero e così arrivò a Firenze. Quando arrivò si iscrisse all'università di medicina e si confidò con me. Era terribilmente annoiata dall'atmosfera borghese di Firenze e dall'ottusità psicologica dei professori italiani. Aveva nostalgia della Russia, dell'avventura, dell'azione rivoluzionaria. Così, in preda al suo malumore, mi chiese di aiutarla a tornare in Russia. Organizzammo un bel piano. Era già un bel tipo. Io avevo un'amica, una giovane donna italiana che assomigliava più o meno alla Bogorova, ma non così tanto. Questa amica chiese un passaporto per la Russia, poi opportunamente lo perse. La mia amica russa se ne impossessò e così andò in Russia con un passaporto italiano. Naturalmente io mi prestai a tutto questo con la promessa da parte sua che lei mi avrebbe organizzato il contesto pratico per il mio viaggio in Russia. E per tutto l'inverno e la primavera presi lezioni regolari di russo. Così andai in Russia con una doppia personalità. Uno era di studente di medicina. In quei giorni si teneva il primo congresso dell'Ordine Russo degli Psichiatri. Dall'altro canto ero anche amico di un'anziana signora che era la sorella dell'ambasciatore italiano, una signora molto simpatica la cui famiglia era di seguaci di Mazzini. Così mi ritrovai da un lato a frequentare gli aristocratici, dall'altro a mischiarmi con gli studenti rivoluzionari. Molto interessante. Tutto questo si svolgeva nel 1911, prima della rivoluzione. Ero stato un giorno, la mattina presto, arrivò nella mia camera la mia amica Bogrova con un giornale e disse: «Svelto, alzati, mio cugino ha ucciso il primo ministro». Ero abituato alle sorprese, ma quello fu un vero e proprio shock. Mi vestì in fretta, poi facemmo un piano d'azione. La mia amica mi disse: «Sono preoccupata, i miei veri documenti sono a casa degli zii». devo andare a recuperarli. Le risposi, sei un'asina, se vai lì ti metti nelle mani della polizia, li incontrerai lì sicuramente, invece facciamo così, andrò io a prendere quella roba. Non possono farmi nulla, sono un cittadino italiano protetto dall'ambasciatore. Beh, potevano mettermi in prigione e fare delle storie o potevano espellermi dalla Russia, ma per me il pericolo era senz'altro più basso. Lei fu d'accordo, presi il taxi e andai e con il mio russo stentato spiegai tutta la situazione ai due anziani che non ne sapevano niente. Poi facemmo un falò di tutte le carte, raccolsi i vestiti e me ne tornai tranquillamente a casa. Così, era per darvi un po' un'idea di questo giovane Assagioli. Quindi, gli anni universitari di Assagioli sono caratterizzati già da interessi culturali molto diversi fra loro, e tre in particolare saranno poi le linee di ricerca che lui svilupperà per tutta la sua vita. Anzitutto, l'interesse per la psicologia americana, in particolare il pragmatismo di William James. Poi l'interesse per la psicanalisi e per la psicoterapia più in generale, e infine per le tradizioni spirituali di molte culture, soprattutto di quelle orientali. Assagioli frequentò anche le avanguardie letterarie fiorentine, collaborando con Papini, con Prezzolini, con Vailati nella redazione delle loro riviste La Voce e Leonardo. Di quell'esperienza ha scritto: l'avanguardia letteraria ha avuto il grande merito di introdurre nella cultura italiana, all'epoca un po' provinciale, il pensiero di alcuni dei più importanti filosofi e psicologi dell'epoca, per esempio Nietzsche, Freud, Bergson e soprattutto il pragmatismo americano di William James e di Ralph Waldo Emerson. L'avanguardia letteraria criticava l'approccio materialistico della scienza del tempo e dicevano sostanzialmente: questo tipo di scienza meccanica, razionalistica, serve senz'altro molti scopi utilissimi, ma ha veramente poco da dirci su quelli che sono i problemi ultimi esistenziali dell'essere umano. Nello stesso tempo, Assagioli viaggia in tutta Europa e ha l'occasione di studiare con i maggiori psichiatri del tempo, con Claparède e Flournoy a Ginevra, con Krapelin e con Jones a Monaco, con Bleuler e con Carl Gustav Jung a Zurigo. E viene così a conoscenza delle teorie elaborate da Sigmund Freud e, sebbene giovanissimo, ne comprende appieno il significato rivoluzionario. Se pensate, un merito non da poco, sapendo quanto la psicanalisi fosse allora osteggiata in Italia. Infatti, Assagioli sarà a soli 20 anni il primo a tradurre gli articoli di Freud che poi saranno pubblicati sulle riviste dell'avanguardia. Sarà anche il primo italiano ammesso all'International Psychoanalytic Society e anche il primo studente italiano a laurearsi con una tesi sulla psicanalisi, tra l'altro scritta sotto la supervisione di Carl Gustav Jung, con cui, dicevo, manterrà poi rapporti amichevoli per tutto il resto della sua vita. Ma fin da subito, pur avendo grande ammirazione per i temi evidenziati dalla psicanalisi, Assagioli ne identifica anche i suoi limiti e punti deboli. Lui affermava: nell'edificio psichico non ci sono soltanto i sottosuoli malsani da risanare, quelli che Freud aveva così bene messo in luce, ma ci sono anche i vari piani e, come vi avevo anticipato prima quando ho mostrato il diagramma dell'ovoide, gli attici luminosi con ampie terrazze dove si possono ricevere i raggi vivificanti del sole e la sera contemplare le stelle. E infatti proprio a questo stesso periodo risale la nascita del suo grande interesse per le tradizioni spirituali, filosofiche ed esoteriche di molte culture. Prende addirittura lezioni di sanscrito all'università per essere in grado di leggere i testi spirituali in lingua, e queste letture gli dimostrano senza ombra di dubbio quanto la psicologia introspettiva dell'Oriente, soprattutto riguardo agli stati più elevati di coscienza, avesse raggiunto un tal punto di complessità e profondità da superare di gran lunga la psicologia contemporanea occidentale. Se pensate, solo adesso, no? La psicologia contemporanea occidentale comincia ad integrare, adesso c'è la grande vague della mindfulness, no? Assagioli sosteneva questo 100 anni fa. Nella seconda parte della sua vita, che ho definito germogliare, gli stimoli accumulati cominciano a prendere forma. Si sposa con Nella Ciappetti e un anno dopo nasce il loro figlio Ilario. Nello stesso periodo la famiglia si trasferisce a Roma, dove Saggioli inizia ad esercitare l'attività di psichiatra e fonda l'istituto, che a quel tempo si chiamava non istituto di psicosintesi, ma istituto di cultura e di terapia psichica. E come vi avevo già anticipato, nel 27 nasce ufficialmente la psicosintesi. Potare è invece il titolo della terza parte della sua vita, perché questo è certamente il periodo più difficile, più travagliato. Saggioli era ebreo e quindi durante il regime fascista soffre le persecuzioni razziali. Nel 1938 viene chiuso l'istituto, nel 1940 viene denunciato, arrestato e poi incarcerato, dove trascorrerà alcuni mesi nel carcere di Regina Coeli, con l'accusa di essere, pensate un po', un pacifista e un internazionalista, che evidentemente erano dei crimini per il regime fascista. E in seguito, rilasciato abbastanza velocemente, fu costretto a nascondersi sulle montagne per sfuggire ai nazisti, da cui era attivamente ricercato per essere deportato, e si dovette nascondere anche con il figlio già malato di tubercolosi. Recentemente l'istituto ha pubblicato un altro libro interessante, qui ho trovato solo l'immagine in inglese, in italiano si intitola Libertà in prigione, che raccoglie proprio le esperienze che Saggioli ha documentato durante queste dure prove. Che tra l'altro è interessante, di Libertà in prigione, è che Saggioli si vergognava quasi, non voleva nemmeno che fosse pubblicato, erano degli appunti. Quindi diceva: con quale diritto io, che sono rimasto soltanto per 3 mesi in prigione, posso raccontare o scrivere la mia esperienza quando ci sono persone, soprattutto nel periodo di cui stiamo parlando, che soffrono molto più di me? E questa è una cosa che mi ha sempre colpito, perché mi ha dato spesso la dimensione dell'umanità di Saggioli. Questo porsi sempre la mia esperienza va bene, ma c'è sempre chi ha qualcosa di sofferenza in più, un elemento in più, e quindi c'è questo sempre senso di umiltà, di tirarsi indietro per vivere la vita in prima persona, ma vivere anche la vita degli altri, no? Quindi questa psicosintesi interpersonale, che non può prescindere da un atteggiamento di psicosintesi personale, di conoscenza di me, perché poi riesco a riconoscere meglio l'altro che l'altro da me. Quindi c'è questa connessione. Ed è stato pubblicato in inglese, tra l'altro, proprio per quel motivo che dicevi tu, perché pacifista, proprio perché contro le idee che stavano viaggiando all'interno dell'Italia, gli scritti erano in inglese. Poi è stato pubblicato in italiano soltanto da 2 anni, insomma. Questo è reperibile al centro, perché eventualmente ne abbiamo qualche copia in più. Ed è un testo che trovo ricco di spunti. Sì, è denso di ispirazioni, sì. Concordo. Sì. Scusa l'interruzione, no, ma ci è un afflato. Ci voleva. Nel 1945, a termine della guerra, la famiglia si ritrasferisce a Firenze e purtroppo nel 1951, all'età di solo 27 anni, l'unico figlio, Ilario, muore in seguito a tubercolosi polmonare e anche proprio in seguito agli sforzi e alle sofferenze che aveva dovuto subire durante il periodo della guerra. Ma nonostante tutte queste difficilissime prove, Saggioli ha continuato a diffondere la psicosintesi, e infatti questo è il periodo in cui nascono, sparse veramente in tutto il mondo, centri e associazioni, e giungono anche i primi riconoscimenti ufficiali. Viene invitato a partecipare ai congressi internazionali di psicoterapia. Nel 1965, come avevo anticipato, è tra i fondatori della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, e viene anche invitato a presentare una conferenza nella sessione plenaria della prima settimana internazionale di psicosomatica della storia. Fa parte delle riviste americane dedicate alla psicologia umanistica, alla psicologia transpersonale, e questo è anche il periodo delle pubblicazioni. Tre le più importanti che rappresentano un po' il compimento simbolico di quelle linee di ricerca che aveva iniziato a coltivare fin da giovanissima. Pubblica il suo primo libro in inglese, poi tradotto in italiano con il titolo Principi e metodi della psicosintesi terapeutica, in cui i suoi studi sulla psicanalisi e più in generale sulla psicoterapia trovano un po' la loro organizzazione sistematica. Invece il grande interesse per il pragmatismo americano e per il fondamentale tema della volontà danno vita all'atto di volontà, che viene anche considerato come uno dei primissimi manuali di coaching, almeno così mi raccontano i miei colleghi appunto inglesi e americani. E infine, negli ultimi giorni della sua vita stavo lavorando ad un testo sulla psicologia dell'altro e del sé, che sarà poi pubblicato postumo con il titolo Lo sviluppo transpersonale. E in questo testo convergono le riflessioni di un'intera vita sui percorsi che gli esseri umani intraprendono alla ricerca della loro autorealizzazione e anche della loro autotrascendenza. E infine questo sarà anche il periodo in cui inizia a formare allievi che provengono da tutto il mondo e che si riuniscono nella sede dell'istituto, che allora era la sola casa dove lui viveva, e che porteranno avanti poi la psicosintesi fino ai giorni nostri. E vorrei concludere la presentazione della sua figura con un episodio raccontato proprio da un suo allievo, che raccontava che Saggioli aveva una barchetta sulla sua scrivania e quando spolveravano gliela spostavano sempre, e lui, quando lo notava, la riorientava verso la finestra, verso lo spazio aperto. E allora questo allievo, con la curiosità del giovane, gli domandò come mai. E lui rispose: perché per me rappresenta l'avventura. Posso mettermi in viaggio ogni momento, cambiare, rimettere tutto in discussione. Saggioli diceva che in là con gli anni non aveva ancora imparato a vivere, diceva che non si smette mai di imparare a vivere. Beh, io so, mi fermerei qui, penso che abbiamo fatto tardi. Se c'è qualche curiosità o se avete delle domande anche ad Annalisa, la direttrice del centro. Magari delle domande sulle attività che svolgete. Quelle lo facciamo dopo, chiusura, non ti preoccupare. No, ti chiedere la risonanza internazionale di Assaggioli. Sì, ecco, qual è stata? Sì. Beh, allora, quella nazionale. In realtà non sono così informata, sono più informata adesso attualmente. Però diciamo, lui ha avuto veramente studenti in America. In America c'era un gruppo fortissimo negli anni 70, anche perché tu immaginati la California degli anni 70, la sperimentazione che c'era. Questa visione con un'apertura transpersonale, spirituale, e lui lì è ricordato sempre come un maestro. In Inghilterra ci sono diversi centri tuttora vivissimi. Sono stata a Londra proprio settimana scorsa e il Psychosynthesis Trust è l'istituto centrissimo, hanno una posizione pazzesca, 400 metri dal Tower Bridge. Esattamente. E quindi anche nei paesi nordici, in Russia, in Grecia, in Brasile. E poi è vero che chiaramente nel corso degli anni cambiano, nel senso, magari alcune realtà che sono legate a delle persone che magari cambiano interessi o invecchiando lasciano, poi ne nascono delle nuove. Sì. C'è stato per un periodo in Africa? C'è stato per un periodo un progetto in Africa. Ho avuto il progetto in Africa, a Nairobi. per 4 anni. Annalisa è più informata di me, perché in realtà, come dicevo prima, sì, io sono chiusa nella mia io invece stanza, giro davanti al computer. Io giro. Quindi non sono molto in contatto con i colleghi che invece ci sono più informati e attivi. Comunque sì, ha avuto si trovano tuttora gruppi molto attivi che formano psicoterapeuti, formano counselor, coach. Beh, per esempio in questo momento con l'istituto ci sono parecchi rapporti proprio con la Russia, con l'Ungheria, tanto è vero che a maggio siamo stati invitati proprio per Papini, siamo stati invitati dall'associazione italo-ungherese proprio ad un convegno che si terrà per 3 giorni sulla figura anche di Roberto Assaggioli, quindi ci sarà una parte. Ci sono state negli ultimi anni anche pubblicate moltissime tesi che non riguardano soltanto la parte di psicologia ma anche la parte filosofica, quindi molti giovani si stanno anche avvicinando alla figura di Roberto Assaggioli perché ne stanno trovando spunto. Quindi lui che non voleva entrare nel mondo accademico, perché questo l'ha sempre aborrito, gli è stato chiesto più di una volta di entrare a Firenze in ambito accademico, no, perché la psicosintesi è per tutti, la psicosintesi non può rinchiudersi in un ambito solo che sia accademico o che sia di altro genere, quindi ognuno di noi è psicosintesi in nuce. Praticamente basta che ci si attivi verso una volontà di stare bene con noi stessi e poi nel mondo. Però in realtà adesso gli ambiti accademici richiedono, quindi che sia la Russia o che sia la stessa Firenze, perché stiamo collegandoci con l'università anche con dei trainer e quant'altro ancora, c'è questa così scoperta. Anche perché purtroppo, mi è fatto venire in mente quando parlavi di Jung, c'era un carteggio bellissimo tra Jung e Assaggioli che però purtroppo è andato distrutto, perché in molte carte lui le teneva a Capolona, che è questa piccola villa nelle colline toscane vicino ad Arezzo, dove andava spesso a riposarsi, no? Dal caldo di Firenze che anche allora c'era. E purtroppo una buona parte di carte e di lettere che tra Jung erano, e Assaggioli erano conservate a Capolona. E la casa si bruciò saltare. Per 2 volte. Neanche le ha fatto saltare. Esattamente. Quindi andarono perse non solo questo tipo di carteggio, ma un altro carteggio interessantissimo, che è quello riguardante Pirandello e Assaggioli, perché erano vicini di casa. Nella palazzina nel 1936 uno abitava al primo piano e l'altro al terzo. Sì. E quindi le discussioni che facevano a proposito di questo tema della molteplicità era lì. Uno, nessuno, 100.000. Sarebbe stato bello stare sulla ringhiera. Il volto, la maschera, dove la mettiamo, no? E i figli tra l'altro erano anche molto amici, giocavano insieme. Però questi carteggi sono andati purtroppo persi. Ed è un peccato, perché penso che avrebbero senz'altro arricchito. E la sua tesi di laurea? Domanda che mi è stata posta. La sua più tesi di laurea. A cui non so mai rispondere. C'è Laura Ferrea, che all'interno dell'istituto è la persona che collabora da anni e ha dato vita all'archivio Assaggioli, quindi vi pregherei anche di. È online, quindi di andare a scuriosare un pochino, perché si trovano tanti spunti e tanto materiale. Sta diventando pazza, perché ha richiesto, sta facendo ricerche da 3 anni e fino ad oggi non è ancora stata ritrovata. Ma dovrebbe esserci da qualche parte. Dovrebbe esserci, ma ahimè, tanto distrusse il fuoco quanto poté distruggere probabilmente nel 1966 l'alluvione. Quindi il problema è che all'epoca chiaramente non avevamo i mezzi tecnologici di oggi, probabilmente può essere andata distrutta nell'alluvione. Comunque la Laura è un suo punto fisso e quindi continua le proprie ricerche. Questo è. Comunque l'istituto è visitabile, quindi è in via San Domenico 16, a Firenze, alle pendici di Fiesole, è un tutt'oggi si può andare, merita senz'altro perché si respira un'aria particolare e lo studio richiedendolo può essere visitato e quindi c'è ancora la barchetta, c'è la barchetta orientata verso la finestra. Sì, sì. Ci pare che se qualcuno la sposta la mattina dopo la trovano girata. Sì. Non è vero, sto scherzando. Pare che ci siano dei movimenti di notte. Noi che ci dormiamo lo sappiamo. Lo sì, ci sono. Nella stanza di Lario. Ah, ecco, qualcosa vedi, c'è. Qualcosa c'è. Qualcosa si muove. Però merita, insomma, è un angolo di Firenze magari poco battuto, ma che lascia senz'altro qualcosa da portarsi a casa, insomma. Bene, se non ci sono altre domande vi salutiamo, vi ringraziamo. E vi aspettiamo al centro, via Portici 51, e avremo un'ultima conferenza a metà marzo con il dottor Rossin, e lì parleremo di sogni. Ah, bravo. E quindi insomma, e vi aspettiamo. Poi ci sarà il congresso che ha aperto, che la città di, nella giornata di sabato è aperto la cittadinanza, tra l'altro alla sera offriamo, e questo sarebbe Mara forse più brava di me a spiegarvelo, c'è un concerto assolutamente da non perdere con il maestro Daniel Levi. E sarà una, come dire, un'esperienza anche qui profonda, sensoriale, magari da portarci via. Quindi vi aspettiamo numerosi. Anche al centro, perché comunque le attività, i corsi introduttivi e qualcosa abbiamo ancora in programma, anche se siamo sotto congresso. E io ringrazio tutto il gruppo perché si lavora in gruppo al centro. Io rappresento momentaneamente il gruppo. Quindi in realtà ognuno di noi fa la propria parte, sì. Da volontario. Bene, grazie mille. Grazie. Vi spero una cella per questo interessantissimo excursus e anche ad Annalisa Gemma. Grazie. E alla prossima. Alla prossima. Grazie. Se volete esercitarvi questo funziona, questo è più bello. Da lettura, ma questo per gli esercizi su di...